Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del famoso piano Juncker, oggi illustrato dallo stesso Presidente della Commissione Europea. Ieri abbiamo avuto già un approfondimento e devo dire che ci siamo sbagliati di poco, nel senso che quello che già emergeva dall'analisi fatta dall'editorialista del Sole 24 Ore Adriana Ceretelli, che ieri aveva scritto anche un commento su questo, beh, si è confermato, ossia sarebbero 315 miliardi quelli che il piano di investimenti potrebbe, e usiamo sempre il condizionale, mobilitare. Perché? Perché di soldi veri, veri nuovi, non ce ne sono. Soldi veri messi a disposizione dalla Commissione Europea sono in tutto 21 miliardi, in realtà poi, come già calcolavamo ieri, sono 15 quelli effettivi, e la Commissione si aspetta un effetto leva per cui con, diciamo, un miliardo messo dall'Europa se ne sviluppino altri 15 circa di soldi dei privati, ed è tutto aleatorio, è tutto da dimostrare. Ma soprattutto la cosa che a mio avviso è ancora più perniciosa è il fatto che intanto questi soldi appunto vengono presi dal bilancio europeo e 5 invece arriveranno dalla Banca Europea degli Investimenti, però la cosa perniciosa è che questo fondo europeo, a cui dovranno, se vorranno, contribuire i vari paesi, ha poi un comitato che deve decidere quali progetti approvare oppure no, e i progetti arrivati dagli stati membri sono già 1800 per un totale di 1.100 miliardi. L'Italia, tra l'altro, è il paese che ne ha mandati di più, 87 miliardi in totale. Però il punto vero, dicevo, è che i soldi che il paese mette in questo fondo saranno scomputati dal deficit, cioè non verranno calcolati per il deficit. E uno dice, oh, finalmente l'Europa ha fatto passare la regola, che se non ricordo male era quella del piano Delors, per cui gli investimenti in infrastrutture che aumentano la competitività complessiva dell'Europa non possono essere considerati alla stregua delle spese correnti e quindi del deficit. Non è vero, perché in realtà il paese, poniamo l'Italia, mette 3 miliardi in questo fondo per finanziare il fondo, dopodiché il comitato decide quali progetti vengono premiati, per cui tu paradossalmente potresti mettere 3 miliardi che non ti vengono calcolati nel deficit, ma vedere un ritorno di 100 milioni. L'unico progetto tuo che passa è quello da 100 milioni, e gli altri 2 miliardi e 900 milioni andare a progetti magari in Portogallo, magari in Irlanda, in Polonia e quant'altro. Quindi c'è un rischio altissimo, certezze poche, se non che questi 3 miliardi che fai uscire non vengono calcolati nel tuo deficit, ma sono sempre 3 miliardi di contribuzione all'Europa. In un paese come l'Italia, lo dico, che è già un contributore netto dell'Europa, cioè dà più di quello che riceve. E quindi, a mio avviso, sentir dire Jean-Claude Juncker che l'Europa sta voltando pagina dopo anni di sforzi per promuovere la credibilità fiscale delle riforme, mi sembra eccessivo. Non sta voltando pagina, non sta voltando pagina, ma la pagina successiva assomiglia a quella precedente. Più risorse ai paesi che hanno sofferto dalla crisi, dice Juncker, ma ripeto, visto che c'è un comitato che deve decidere a chi dare i soldi, è tutto aleatorio, potrebbero andare la maggior parte a progetti di altri paesi. Ne parleremo nella seconda ora del programma, ma devo dire appunto le novità sono poche. Nella giornata in cui di nuovo c'è stata una buona notizia sul nostro debito, nel senso che il Tesoro ha fatto il pieno all'asta di botta a 6 mesi, il tasso è calato allo 0,27%, 6 miliardi di botta a 6 mesi collocati, è calato in maniera consistente perché il tasso precedente, quindi quanto è costato in precedenza a noi trovare finanziatori per il nostro debito, era lo 0,38%, oggi ci è costato solo lo 0,27%, con buone richieste, quindi superiori di 1,7 volte alla domanda. Parleremo anche della legge di stabilità, con varie dichiarazioni, e soprattutto in apertura del tema dei bancari. Ora mi chiedete, ma perché? Perché il contratto dei bancari riguarda 309.000 lavoratori, così come ci occupiamo della ST di Terni, abbiamo notizie anche su questo, e di altri contratti da rinnovare, beh, questo è uno dei più importanti. E soprattutto ieri, come ci ha raccontato il rappresentante della Fabile, il principale sindacato dei bancari, Sileoni, si è arrivata a una rottura che porterà con ogni probabilità allo sciopero a gennaio. Allora, le notizie in breve le facciamo dopo, e tanto sono in parte alcune che ho già ricordato, e vorrei subito passare a questo tema, non prima di avervi però ricordato come va la borsa. A Milano è negativa come a Parigi, Milano meno 0,50, Parigi meno 0,30, è positiva a Francoforte più 0,40, Londra più 0,11, bene da noi UX più 6,40, Azimut più 1,1, Finmeccanica più 0,80, Enel più 0,70 come Green Power, lo 0,60 lo guadagna la Popolare di Milano e lo 0,50 Mediolanum. Fronte opposto invece per quello che riguarda la borsa, CNH Industrial meno 4,60, Saipem meno 2,15, Eni meno 1,90, Monte dei Paschi meno 1,60, UBI Banca, Telecom e Intesa San Paolo meno 1%, TOZ meno 0,90, World Duty Free meno 0,80, come Snam, Rete Gas e la Popolare Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora parliamo subito del contratto dei bancari, questa volta ospitando la controparte. Ieri chi rappresenta i bancari, la Fabi, oggi chi rappresenta le banche e quindi l'ABI. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, saltata ieri la trattativa sul rinnovo del contratto dei bancari, 309.000 lavoratori del settore del credito che sono interessati, più altri 37.000, se non ricordo male, del settore cooperativo. Dal 15 dicembre i lavoratori si riuniranno in assemblea. L'orientamento, come confermato anche ieri, è quello di andare verso uno sciopero nella seconda metà di gennaio. Allora, i banchieri chiedono una riduzione strutturale del costo del lavoro con interventi sugli scatti e sull'anzianità, sugli scatti dell'anzianità e sul TFR. In cambio, la disponibilità a restituire la perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione. Tra l'altro, il 31 dicembre scade la proroga della disdetta del contratto deciso dall'ABI e a quel punto, dal 1 gennaio, se ho ben capito, scatterebbe l'azzeramento degli scatti di anzianità e dell'indennità di cassa. Possibile un'ulteriore proroga, l'ultima possibile, scusatemi, fino al 31 marzo prossimo. Ieri Lanno Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, aveva chiarito il motivo per cui avevano rotto le trattative. Ci ha raggiunto in collegamento invece chi rappresenta le banche e quindi l'ABI, il comitato sindacale del lavoro dell'ABI, nonché presidente del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo. Buonasera. Buonasera. Allora, le faccio ascoltare, dico subito agli ascoltatori, parliamo con Profumo del contratto, non del Monte dei Paschi, così evito di rispondere, nel senso che questa è parte dell'accordo. Quando vorrete parlare del Monte dei Paschi, come presidente del Monte dei Paschi, lei e Viola siete benvenuti. Poi se vuole aggiungere qualcosa sul Monte dei Paschi, io la prendo, ci mancherebbe. No, il contratto mi sembra che ci sia già abbastanza. Allora, detto questo, dicevo, ieri il segretario generale della Fabi, Sileoni, ha spiegato, insomma, perché respingono le offerte e anche l'atteggiamento dell'ABI. Abbiamo rotto perché non c'erano le condizioni per andare avanti, nel senso che l'ABI vuole il blocco strutturale della sterilizzazione del TFR e degli scatti di anzianità. Significherebbe che ogni lavoratore rimetterebbe circa 1.700 euro ogni tre mesi e in cambio ci danno un aumento dell'inflazione pari all'1,85%. Le due voci TFR e scatti valgono per il 2,40, quindi paradossalmente dovremmo pagare di tasca nostra per rinnovare il contratto. L'ABI ci ha definiti anacronistici, no? Uh-huh. Ecco, in due battute, noi siamo anacronistici perché difendiamo chiaramente fino in fondo i diritti dei lavoratori, ma sono moderni loro che hanno creato 171 miliardi di sofferenze e soprattutto 68 mila posti di lavoro in meno dal 2000, quindi loro sono moderni, sono dei riformisti da questo punto di vista, tanto vero che abbiamo perso 68 mila posti di lavoro, insomma mi verrebbe da dire da quale pulpito viene la predica. Allora, Presidente Profumo, il tema è abbastanza chiaro, riduzione strutturale del costo del lavoro, TFR e, se non ricordo male, Sileone aggiungeva anche tutta la parte che riguarda la piattaforma, per cui in caso di fusioni, la traduco per gli ascoltatori, in caso di aggregazioni o fusioni bancarie, voi chiedete mano libera, invece loro vogliono un rispetto, diciamo, della piattaforma contrattuale esistente. Cosa risponde a Sileone e in generale a tutti i sindacati, visto che anche Megale della Fisac, CGL ha detto che sono pronti allo sciopero a metà a gennaio e si sono già mobilitati. Prego. Beh, io rispondo questo. Prima di tutto una considerazione. Noi sappiamo benissimo che siamo un'azienda di servizi, delle aziende di servizi nel settore bancario basate sulle risorse umane. Quindi abbiamo un grandissimo interesse ad avere risorse umane che abbiano una prospettiva del loro futuro e abbiano una visibilità su quello che gli va a succedere. Detto questo, diciamo anche che stanno accadendo alcuni eventi che non sono generati da noi, ma che impattano in modo molto forte l'industria bancaria. Ne cito alcuni. Abbiamo un ciclo che in modo prolungato è debole, abbiamo visto una discesa del prodotto interno lordo in questi ultimi 5 anni che è quasi 7%, sappiamo che dall'anno prossimo dovremmo ricominciare a crescere, ma non in modo consistente. I tassi sono e resteranno bassi, i nostri clienti stanno cambiando completamente le loro modalità di relazione con noi, pensate che oggi abbiamo meno del 20% delle transazioni che vengono fatte allo sportello perché si usano sempre di più canali alternativi. Abbiamo una nuova normativa, abbiamo un nuovo supervisore, insomma tutti questi elementi qua cambiano in modo strutturale le modalità con le quali le banche vivranno nel futuro. A fronte di questo cambiamento strutturale noi diciamo che riteniamo corretto discutere nel contratto nazionale del recupero dell'inflazione, quindi della salvaguardia del potere d'acquisto, ma riteniamo che il settore nel suo insieme non abbia capacità di generare risultati economici che possano sostenere e quindi dare quella visibilità del futuro di cui parlavo all'inizio, delle crescite non diciamo delle crescite automatiche del costo del lavoro. Quindi la nostra richiesta è dire eliminiamo questi fattori che danno una crescita automatica. Non condivido molto i numeri che ha dato Sileone, devo dire, ma ne parleremo poi in un'altra occasione. Eliminiamo questi fattori di crescita automatica del costo del lavoro e diciamo che a livello aziendale, nel momento in cui ci sono dei recuperi di produttività e un incremento della redditività, si negozia una ripartizione di questo valore. Fatemi dire che se vado a guardare altri segmenti del lavoro italiano, penso ad esempio alla pubblica amministrazione dove c'è un blocco totale delle dinamiche anche inflazionistiche, mi sembra che sia un ragionamento estremamente equilibrato e direi corretto. Allora Profumo, mi faccia fare come ieri ho fatto la parte dell'ABI perché non riusciamo a mettervi assieme, adesso devo fare la parte dei sindacati. O noi o loro l'assumeremo. No, guardi, no, sto abbastanza bene qua, poi vediamo. Vediamo che succede. Allora, loro dicono due cose, vabbè, la parte di trattativa, c'è anche una componente fisiologica di trattativa, ma loro hanno rotto, e ieri nell'intervista a Sileone emergeva abbastanza chiaramente, anche perché c'è una parte che riguarda le future operazioni, la traduco per tutti, le future operazioni, loro si immaginano che il mondo delle banche, essendo fragile, possa essere attraversato da altre fusioni e aggregazioni, e dicono noi non vogliamo lasciare mano libera con un nuovo contratto a qualunque forma di esubero, vogliamo che venga mantenuto il perimetro che garantisca anche in caso di nuove fusioni e aggregazioni bancarie, garantisca il perimetro occupazionale. Ecco, su questo Sileone è molto insistito e c'è un timore vero, nel senso che se viene lasciato completamente aperto il perimetro sulle nuove fusioni è chiaro che poi non si controllano più gli esuberi. Ma guardi, due considerazioni. Una, che noi non possiamo andare contro la legge di gravità, nel senso che se abbiamo ricavi che sono in discesa o stabili, abbiamo dinamica di costo unitario del lavoro che cresce, purtroppo difficilmente quadriamo i conti. Questa è una prima considerazione generale. Dopodiché dico anche questo: noi sappiamo che ci sono cinque elementi fondamentali sui quali stiamo discutendo, che sono recupero dell'inflazione, sono TFR, sono scatti, sono area contrattuale, perché lei fa riferimento al tema dell'area contrattuale, almeno Leoni fa riferimento al tema dell'area contrattuale, e inquadramenti. Noi diciamo che questi cinque elementi ovviamente dovranno trovare un punto di equilibrio, perché sappiamo benissimo che quando ci si siede a trattare si sta trattando, quindi siamo coscienti che noi e loro dovremo muoverci dalle posizioni di partenza. Diciamo anche che dobbiamo fare qualche cosa che poi dia sostenibilità nel lungo periodo al settore. Però allora c'è un altro elemento che toccava Sileoni, visto che lei faceva l'esempio della forza di gravità. È vero, non si può andare contro la forza di gravità, ma molti manager bancari sembrano degli astronauti, nel senso che, e mi riferisco ai bonus, non a lei nel caso specifico, che sappiamo che ha rinunciato all'emulazione Monte dei Paschi, però la sensazione, che è più di una sensazione, è che cioè il convento sia povero, ma i frati siano grassi, intese come le politiche di remunerazioni che i top manager bancari si danno. Questo non aiuta, secondo me, in una fase di trattativa. Ma guardi, io le posso citare, perché poi questi numeri purtroppo si conoscono a livello di singola azienda, la situazione attuale del Monte dei Paschi. Oggi nel Monte dei Paschi c'è un gruppo dirigente dove ognuna delle persone guadagna meno di quanto non guadagnasse il corrispondente ruolo nella gestione precedente. Sapete che c'è stato un cambio totale del gruppo. Vabbè, ce ne siamo accorti. Seconda cosa, oggi l'insieme del gruppo dirigente guadagna circa il 26% in meno del gruppo dirigente precedente. Dico subito che se potessimo fare un contratto in cui c'è un risparmio del costo del lavoro del 26% lo firmeremo domani mattina, quindi... Sì, vabbè, 26% di chi sta a 200.000 euro è diverso da 26% di chi... Ho capito, però diciamo c'è stata una riduzione consistente, no? Quindi sono totalmente d'accordo con lei, però questa è la situazione oggi. Della banca che presiedo, e mi risulta che molte altre banche abbiano fatto lo stesso. No, io lo dico, ma mi rendo conto che poi lei ha la delega appunto come del comitato sindacale del lavoro dell'ABI, non è presidente dell'ABI, però lo girerei tranquillamente a tutti i banchieri. Attenzione, perché poi anche da questi segnali, forse di carattere non così economico ma sicuramente simbolico, si riescono anche a chiudere le trattative. È una mia valutazione, cioè vedere certi compensi di suoi colleghi nel mondo bancario non aiuta poi a dire che bisogna tirare la cinghia a tutti quanti, perché sembra che la cinghia la devono tirare sempre i soliti. Però vorrei capire una cosa adesso: come se pensate che ci siano gli estremi per risiedersi a un tavolo, perché i sindacati hanno detto che a gennaio sciopereranno. Ora lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, non è che stiamo dando più importanza allo sciopero delle banche rispetto ad altri scioperi. È anche vero però che il mondo bancario, che è un mondo tutto particolare perché lo sappiamo, sciopera quasi mai. Ce n'è stato uno quest'anno, vado a memoria, e ce ne sarà un altro l'anno prossimo, con dei disagi che sono simili a quelli di altri grandi scioperi. Tutto qua. Allora, arriverete allo sciopero e poi vi risiederete al tavolo, o secondo lei da qua, diciamo metà gennaio, c'è la possibilità di risiedersi al tavolo senza uno sciopero? Ma guardi, questo credo che bisogna chiederlo più ai sindacati che a noi. Quello che noi sappiamo è che ci rendiamo conto che ci sono quei cinque elementi sui quali bisogna discutere. Su alcuni di questi elementi noi abbiamo delle forti priorità, su altri elementi, le citava l'area contrattuale, loro hanno delle forti priorità, dovremmo avere la capacità di trovare un punto di sintesi. Non so se sarà possibile trovarla prima o dopo lo sciopero, perché loro devono comunque consultare le loro basi, e quindi ci sono dei tempi tecnici per fare questo lavoro. Credo che sia comunque necessario in tempi ragionevoli, secondo me prima della fine dell'anno, di avere una visibilità su che cosa potrebbe andare a succedere come punto di caduta dell'eventuale accordo. Ecco, ma se io dicessi che per esempio potreste aprire, quindi modificare la parte che riguarda l'area contrattuale e invece cercare di mantenere, che il punto di caduta potrebbe essere cercare di mantenere la riduzione degli scatti di anzianità e TFR, magari aprendo sull'area contrattuale? Ma guardi, come dicevo prima, ci sono cinque elementi, no? Questi qua sono tutti elementi che si tengono uno con l'altro, dovremmo trovare una quadratura del cerchio intorno a questi cinque elementi, quindi è difficile dire quale si muove prima, quale si muove dopo, dove sono i punti di caduta. La nostra volontà è prima o poi di fare un contratto. Beh, immagino. Sì. Esatto, okay. Quindi c'è anche l'ipotesi di non farlo, no? Lo diceva lei in apertura. Perché voi prorogherete la disdetta fino al 31 marzo? Ma guardi, io credo che noi dobbiamo comunque passare attraverso la disdetta del contratto, perché tecnicamente a fine anno, dopodiché mi faccia anche dire che si può fare una disdetta con una disapplicazione immediata o una disapplicazione che avviene dopo un certo periodo di tempo. Allora, quindi se ho ben capito, perché su questo ci scrivono anche molti messaggi, 31 dicembre scade la proroga Profumo e della disdetta del contratto decisa appunto da voi a suo tempo, potreste andare al 31 marzo? No, perché riceviamo, ci sono molti bancari, come lei immagina, quest'ora in ascolto mi stanno tempestando di sms, potreste andare fino al 31 marzo e a quel punto però... Come dicevo prima, io penso che se per il 31 dicembre non è successo nulla, comunque la disdetta deve essere data. Dopodiché disdettare un contratto è diverso dal disapplicarlo. Quindi potrete dare la disdetta ma non disapplicarlo, capito bene? Noi potremmo dire che la disapplicazione avviene dopo un certo periodo di tempo. Ok, questo ho capito anch'io. La eventuale disapplicazione se non si fa un accordo. Che mi sembra l'ipotesi forse più percorribile, che formalmente diate la disdetta il 31 dicembre, però la disapplicazione del contratto avvenga più avanti. Ma guardi, per fortuna abbiamo ancora un mese di tempo per pensarci e decidere. Quindi c'è insomma un certo periodo di tempo per arrivare a capire cosa succede. Dopodiché, se tra qua e là non succede nulla, penso che sia difficile che ci risediamo al tavolo, perché comunque, come dicevo, i sindacati devono consultare le loro basi. Al 31 dicembre ci sarà la disdetta, e se c'è una visione di quale ci può, insomma, c'è un'idea di dove si può andare a parare, la disapplicazione può essere dopo n giorni, n settimane, n mesi, decideremo che cosa sarà. Quindi difficile che vi siate al tavolo entro il 31 dicembre, ma la disdetta del contratto può essere prorogata di qualche... La disapplicazione, mi scusi, il contratto verrà disdetto formalmente, no, ha ragione, il 31 dicembre scade la proroga della disdetta e quella scade formalmente, la disapplicazione del contratto vero e proprio potrebbe essere prorogata di qualche mese, immagino, perché dopo lo sciopero cercherete di risiedervi al tavolo a questo punto. Ho detto che da parte nostra, l'abbiamo anche comunicato ieri, c'è la volontà comunque di fare un accordo, quindi mi sembra che sia abbastanza evidente. In bocca al lupo ai lavoratori del mondo bancario, ai bancari, che è la cosa che noi... Farei anche un in bocca al lupo alle banche. Alle banche sì. Ovviamente, no, quello ci... dire che abbiamo una certa evidenza. No, quello ci mancherebbe, ci occupiamo di voi molto spesso, ma tra l'altro, questo glielo chiedo da banchiere, sul fronte prestiti, crediti alle piccole e medie imprese, adesso senza citare, si sta muovendo qualcosa o ancora voi lamentate, diciamo così, una domanda di bassa qualità, cioè prestiti non a medio termine, non su piani industriali, ma magari per pagare... Okay. Certamente la banca che presiedo, ma mi risulta anche altre banche, sono sensibilmente sotto il budget sul fronte degli impieghi. Sotto il budget? Sotto, cioè, il potrebbero budget. Impiegare di più, ma non hanno domanda? Sì, il problema è che abbiamo una domanda da parte di aziende che purtroppo non hanno poi la capacità di rimborsare. Cerchiamo di accompagnare tutto quello che possiamo accompagnare, io lo assicuro. sicuro, perché non è sicuro che è nel nostro interesse. Cerchiamo di fare al meglio il nostro mestiere, però quando un'azienda non ha le caratteristiche, e ovviamente tutto il lavoro sull'asset quality review ha reso ancora più evidente questo elemento, non ha le caratteristiche per poter avere merito di credito, noi proprio non possiamo accompagnarla. Quindi credo che peraltro c'è in corso moltissimo lavoro anche da parte delle autorità pubbliche, ad esempio per modificare le modalità di funzionamento del fondo di garanzia, cioè c'è parecchio lavoro per consentire anche alle aziende più deboli di avere accesso al credito, ma oggi continua a esserci certamente un problema di andamento dell'economia. Ma visto che mi ha alzato la palla, come banchiere, lasciamo stare Monte dei Paschi, ma i criteri utilizzati degli stress test le sono sembrati un po' troppo, come a noi è sembrato, agevolanti per le banche del centro nord Europa, perché andavano a premiare sostanzialmente, lo spiego a tutti, la banca che metteva i soldi in attività finanziarie, titoli di Stato o equity, rispetto alla banca che prestava soldi alle piccole e medie imprese vista più a rischio, e quindi li torna in ballo Basilea 3. Cioè, perché se fosse così, se fossi un banchiere, se poi gli stress test si basano su questo, cercherei di investire anche in operazioni rischiose finanziarie, ma non prestare i soldi alle piccole e medie imprese se poi mi vai a penalizzare sugli stress test. Mi dica. Non è come dice lei. Bene. Qual è il problema? Che si sono omogenizzati i criteri di valutazione del merito di credito e di classificazione delle posizioni a livello europeo. Noi sappiamo che in Italia abbiamo aziende mediamente molto più indebitate che in altri paesi europei. Lei forse ricorderà, nell'ultima relazione del governatore della Banca d'Italia si è dato anche un numero, si dice che le aziende italiane sono sottocapitalizzate per circa 200 miliardi di euro, e questo si riflette nel merito di credito di queste imprese. Poi abbiamo un peso delle piccole imprese più alto che in altri paesi, cioè ci sono dei problemi di tipo strutturale. Credo che le imprese del nostro paese stiano incominciando a muoversi. Noi vediamo ad esempio che oggi molte famiglie stanno ragionando in termini di aggregazione, cioè non c'è più quella volontà di avere un controllo pieno delle imprese, ma si rendono conto che la dimensione è un fattore critico. Quindi credo che stiano avvenendo dei fenomeni positivi che sono importanti. Dovremo cambiare un po' la struttura dell'economia reale, non solo quella delle banche. Noi banche ci dobbiamo attrezzare per accompagnare questo cambiamento. Quindi penso che sia un fenomeno che si sta evolvendo, certamente purtroppo non si evolve con la velocità che la crisi richiederebbe, però vediamo una strada positiva. E quindi anche i soldi che Mario Draghi ha messo a disposizione in questo momento non vi servono se siete sotto... diciamo, state sottoutilizzando quello che potreste. Diciamo, l'auspicio è che diventino utili con il miglioramento del ciclo e quindi con il miglioramento della domanda di credito. Se l'anno prossimo, come ci aspettiamo, il prodotto interno lordo sarà positivo, ci sarà anche un riflesso sulla capacità delle nostre imprese di ripagare il credito. E quindi potrebbero diventare utili l'anno prossimo. Grazie al presidente Monte dei Paschi, nella qualità anche di presidente del comitato sindacale del lavoro dell'ABI, Alessandro Profumo. Grazie a lei. Allora, dicevo, meno male che gli SMS non sono sonori, sennò saremmo da censura. Vabbè, è noto che i banchieri non godono di grande stampa, era giusto però sentire anche le posizioni dell'ABI, ci mancherebbe. Mi sembra chiaro quello che ha detto Profumo relativamente alla disdetta del contratto che arriverà il 31 dicembre, tanto... Nessuno ipotizza che si possano sedere di nuovo al tavolo, e però la disapplicazione del contratto arriverà più tardi, potrebbe arrivare qualche mese dopo. Allora, altro tema, altro settore, quindi dal mondo delle banche andiamo al mondo dell'industria metalmeccanica, che domani presenterà i dati della 132esima indagine congiunturale. Io ricordo che il settore meccanico e metalmeccanico rappresenta l'8% del nostro PIL ed è il 46, quasi la metà dell'intero valore aggiunto del nostro settore manifatturiero, con dei numeri sull'export che, senza nulla togliere alla moda, all'agroalimentare e ad altre voci, fanno spavento in senso positivo. 190 miliardi di euro di export, 65 miliardi di attivo nella bilancia commerciali. Come ci ricordava ogni tanto l'economista Marco Fortis, per ben 70 categorie di prodotto nella metalmeccanica l'Italia ha il miglior saldo commerciale del mondo e in 285 casi figura anche nei primi tre posti tra i paesi esportatori. Al primo posto ci sono appunto le macchine e apparecchi per impacchettare, imballaggi, poi le fresatrici e parti di autoveicoli richieste dall'industria automobilistica tedesca, turbine, turboreattori, propulsori, apparecchi per l'industria e per il consumo alimentare, le parti di laminatoi. Insomma, è una produzione industriale importantissima per il nostro paese, che continua però a soffrire. L'anno scorso, a settembre, scusatemi, ha fatto meno quasi 3% la produzione industriale sul settembre del 2013. Domani i dati congiunturali, che saranno presentati per la prima volta in contemporanea in oltre 60 territori del paese. Siamo in collegamento con il presidente di Federmeccanica, Fabio Storchi. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto ci può anticipare qualcosa? Senza bruciare. Possiamo solo dire che sarà ancora un dato negativo che conferma questo trend purtroppo di discesa che abbiamo imboccato tanto tempo fa e che pare non voler cessare. Avevamo segnato un più 0 e qualche percento nel primo trimestre dell'anno e poi siamo ripiombati con il secondo trimestre a un meno 2%, credo. E adesso ci apprestiamo a presentare ancora numeri negativi. Dopo il traffico le chiederò, appunto, domani ci sarà tutta l'indagine completa, però di individuare anche qualche ragione, nel senso se ci sono elementi di export, per esempio europeo, che tirano meno, oppure il fronte russo, o se invece torniamo a lamentare. Noi sappiamo che la componente di export nel nostro PIL arriva vicino al 30%, lo dico perché chi continua a illudersi che solo con l'export riusciremo a riequilibrare il crollo dei consumi interni e degli investimenti interni deve ricordarsi che, per quanto importantissimo, per quanto vada bene, il nostro export fa un terzo del PIL e non ce la fai se fai anche più 5, più 7% in un terzo a riequilibrare il meno 5, meno 7 nei due terzi. Questo, diciamo, è abbastanza lapalissiano. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, con il presidente di Federmeccanica Fabio Storchi. Allora, lei ci ha anticipato che domani l'indagine congiunturale, la 32esima indagine congiunturale, avrà dei dati negativi. Devo dire la verità che, insomma, sarebbe stata una sorpresa al contrario. Però che cosa sta pesando ancora? Export verso alcuni paesi, area euro, Russia, o ancora il calo pesante dei consumi interni? Sicuramente il calo dei consumi interni. Ricordavo soltanto che questo comparto fattura 400 miliardi all'anno, di cui 190, quindi quasi il 50%, destinati all'export. Per quanto riguarda il trimestre che presenteremo, no, il periodo gennaio-agosto dell'anno in corso, noi abbiamo un export che dà un più 0,8%, ancora, è ancora positivo, ma risente sicuramente di quella che è la debole congiuntura dei paesi euro e anche delle tensioni che ci sono in Medio Oriente nel conflitto tra Russia ed Ucraina. Registriamo invece dei miglioramenti sensibili nell'export verso la Cina, più 12,4%, e verso gli Stati Uniti più 13,7%. Però mi scusi, Presidente Storchi, con questi numeri, cioè, voi siete già arrivati a una quota di export impressionante, quasi la metà, no? Sì. Dei 300 miliardi, anzi, mi scusi, più della metà, vicino alla metà, come cifra. Ora, export del genere lo vediamo solo in alcuni settori veramente particolari, penso al settore moda in alcuni casi, al settore vino in altri. Quindi il lavoro, cioè, sull'export l'avete fatto. Allora, che c'è qualcosa che sta mancando all'appello, perché sennò avere dei dati ancora negativi rispetto al 2007, pesantemente negativi, io non so quanto, per carità, la Russia, speriamo tutti che si risolva in primo luogo per motivi di carattere politico ed umanitario, l'area euro non sta tornando in piedi, e abbiamo visto anche i dati deludenti sulla Germania, ma non è che proprio tutto si concentri poi sulla domanda interna alla fine, perché insomma, lo sforzo che avete fatto è più che impressionante. È impressionante, nonostante questo sforzo registriamo una perdita di volumi produttivi di oltre il 30% rispetto all'inizio della crisi, e abbiamo perso nel frattempo capacità produttiva per un 25%, quindi un quarto della capacità produttiva è andata distrutta dall'inizio della crisi ad oggi, e quindi il mercato interno è sicuramente il mercato che manca, e rispetto al quale credo che anche domani indirizzeremo le nostre richieste nei confronti della politica. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lo abbiamo detto anche alla nostra assemblea di Bari, investimenti pubblici e investimenti privati. E se vogliamo aiutare il comparto industriale, nel caso specifico il settore metalmeccanico, a riprendere una crescita, riprendere uno sviluppo, abbiamo l'assoluta necessità di riprendere un'attività, un'iniziativa di investimento all'interno del nostro paese. Investimenti anche di carattere pubblico? Investimenti sicuramente di carattere infrastrutturale. Sappiamo che purtroppo dal punto di vista delle infrastrutture il nostro paese è ormai a livello di quarto mondo, e quindi anche su questo settore bisogna aprire cantieri. I cantieri sono, certo, l'unica risposta per creare occupazione, per creare sviluppo e per ridare fiducia ad un paese che ne ha bisogno di tanta. Allora, in bocca al lupo anche nel caso suo, in primo luogo agli addetti, che sono 1.800.000 gli addetti del settore metalmeccanico in questo paese, e poi chiaramente alle imprese. Domani commenteremo ancora più nel dettaglio. Grazie per l'anticipazione al presidente Federmeccanica Fabio Storchi. Grazie dell'attenzione. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni per commentare adesso la giornata di borsa e poi arrivare al, come definirlo, al piano annunciato dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. Molto fumo, poco arrosto. Allora, la borsa, diciamo, debole oggi Milano, nulla di particolarmente significativo, meno 0,36%, meno 0,20% Parigi, più 0,55% Francoforte, invariata Londra, l'America anch'essa sul Dow Jones è invariata. Ottimo andamento per UX, più 6,86%, bene anche Azimut, più 1,40%, Finmeccanica più 1, come Enel ed Enel Green Power e la Popolare di Milano. Male invece CNH Industrial, che è New Holland, meno 4%, Saipem meno 1,90%, Eni meno 1,70%, Monte dei Paschi meno 1,5%, UbiBank meno 1,1%, come Telecom Italia, l'1% lo perde Intesa San Paolo, lo 0,80% World Duty Free e Tod's, lo 0,60% Popolare Emilia Romagna e Snam. Come sempre commento con Radio Corri sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Juncker non ha scaldato gli animi degli operatori, vorrei anche vedere con quel topolino partorito dal piano, ma ce ne occuperemo adesso. Invece, che è successo al Case New Holland? CNH. Sì, CNH è andata male oggi, in verità ha chiuso anche sopra i minimi di giornata perché andava pure peggio, ha chiuso in calo del 4%, colpa della concorrente americana che Deere & Co, che non solo ha registrato un trimestre abbastanza brutto con un calo dei profitti del 20%, una flessione del 13% del fatturato, ma soprattutto ha indicato di prevedere una caduta del 20% della vendita di macchine agricole nei prossimi mesi. Insomma, l'outlook, le previsioni per l'anno venturo per il settore agricolo sono abbastanza funere, e così questo ha comportato vendite cospicue anche su CNH. Allora, per quello che riguarda invece Eni e Saipem, deboli oggi Eni meno 1,70, Saipem meno 1,90, domani c'è il vertice dell'OPEC, dei paesi, dei principali paesi produttori di petrolio. Il tema, lo abbiamo detto molte volte, riguarda i bassi prezzi del petrolio, spinti, secondo molti, dagli stessi paesi produttori, perché sembra paradossale, ma in questo modo più si abbassa il prezzo del petrolio, meno diventa conveniente per gli Stati Uniti estrarre petrolio e gas con lo shale gas, con le sabbie bituminose. Detto questo, mi sembra che la reazione, le attese del mercato siano abbastanza negative, scettiche. Ma sì, infatti va male tutto il settore petrolifero, non solo a Milano, ma ovviamente in tutto il mondo. Anzi, ieri abbiamo visto che anche ExxonMobil di gran lunga ha una capitalizzazione di gran lunga inferiore a Apple, proprio perché Apple è salita, ma intanto ExxonMobil, a causa dell'andamento del petrolio, è andata giù. Il petrolio si attesta a $74 al barile, il WTI, e ha portato giù anche Eni meno 1,69%, Saipem meno 1,9%, e domani, come hai già detto tu, l'OPEC non dovrebbe valutare, non dovrebbe annunciare nessun taglio della produzione. Ancora, tra chi invece è andato bene, Jux soprattutto, ma anche Finmeccanica e Amsaldo STS un po' meno. Finmeccanica, dicevo, ed Enel. Enel, c'è un'intervista oggi su Sole 24 Ore dell'amministratore delegato Francesco Starace, che, se ricordo bene, anticipa efficienze grazie alla riorganizzazione dell'Enel, maggiori efficienze per 1,6 miliardi, e ha parlato anche dei dividendi, Starace. Sì, Starace ha detto che il dividendo, come dici tu, la parola che ho di payout, cioè quello che verrà distribuito degli utili in forma di dividendo, verrà portato dal 40% al 50%. In sostanza i dividendi saranno più generosi, poi saranno create appunto efficienze per 1,6 miliardi che ovviamente verranno utilizzate sotto forma di investimenti e abbattimento del debito. Questo ha acceso i riflettori su Enel, che così ha registrato una seduta in rialzo dell'1%. Poi, per quanto riguarda Jux, che hai appunto indicato, è stato il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 6,8%, e questo sulla scia di Zalando, che a Francoforte è addirittura volata del 16% dopo la diffusione dei conti trimestrali, ma soprattutto dopo le indicazioni anche per fine anno. L'azienda ha detto che dovrebbe chiudere l'anno in utile, quindi diciamo ha diffuso un po' di ottimismo. Quindi parliamo di shopping online in primo luogo via internet, e Zalando è la concorrente, diciamo così, con numeri diversi di Jux. Esatto. E appunto questo ha trascinato all'insù anche Jux, anche per le buone prospettive per tutto il settore. Poi sempre oggi anche Credit Suisse ha emesso un report su tutti i titoli del lusso, e soprattutto ha indicato che le aziende del lusso nei prossimi anni inizieranno a macinare fatturato, ma soprattutto utile, proprio dall'e-commerce. Sì, no, non abbiamo dubbi. Poi, come sempre, tu lo sai, la mia vecchia polemica: vorremmo sapere quanti titoli delle aziende del lusso ha il Credit Suisse quando fa questi report. Però, detto questo, sicuramente è un'analisi, migliori e peggiori in assoluto. Vabbè, la Roma Calcio oggi ha sofferto, ma ha sofferto forse più ieri che oggi, per essere onesti, meno 3,60%, e qui il ragionamento è tutto sulla qualificazione agli ottavi per la Champions League. Invece, miglior titolo, Agronomia, più 15%, Visibilia, editore, più 13,70%, Notorious Pictures, più 11,5%, Mondadori, più 9,50%. CSM, Agam, più 7,70, e poi Jux, di cui parlavamo. Peggior titolo, Caltagirone, meno 5,80, poi Cattolica Assicurazioni, meno 5,60, D-Mail Group, meno 5,30, Italcementi, meno 4,24%. Grazie È Onora Michele di Radio Core, il Sole 24 Ore. Allora, scrive un ascoltatore, la maggior parte dei messaggi sono arrivati chiaramente sull'intervento di Alessandro Profumo in quanto rappresentante, diciamo così, sindacale delle banche italiane. Scrive un ascoltatore, quando smetterà di chiamarla Barisoni, quando smetterà di chiamarla crisi invece di realtà strutturale? Non si tratta più di una crisi. Ha assolutamente ragione, purtroppo anche noi cadiamo nell'errore di usare un termine che non ha più nessun senso. Non è una crisi dura un tempo molto più breve, poi si ritorna storicamente ai livelli produttivi precedenti, delle volte si va anche oltre. Questo è un cambio strutturale, c'è stata una crisi di carattere finanziario, ma qui siamo di fronte a un cambio strutturale, come dice chi ha studiato cambio strutturale di paradigma. Noi preferiamo dire che la crisi ha tempi brevi e facciamo spesso l'esempio, diciamo, una crisi coniugale dura qualche mese, ma se marito e moglie è 7 anni che litigano, non sono più in crisi, sono separati, sono qualcos'altro, hanno un amante, ma la crisi ormai non è più solo una crisi, è un cambio strutturale di paradigma. Non sembra accorgersene fino in fondo che non siamo di fronte a una crisi ma a un cambio strutturale. L'Europa. Ora, noi da sempre difendiamo l'euro, difendiamo il fatto che l'Italia debba stare in Europa e nell'euro, e critichiamo però i comportamenti delle volte messi in atto dai burocrati, tecnocrati, dai commissari europei. Ora, noi non ce l'abbiamo con Juncker, però, che già ha i suoi problemi perché deve giustificare il suo operato quando era premier del Lussemburgo, visto che poi parla di armonizzazione fiscale in Europa, però devo dire la verità che quando lui ha fatto il discorso di investitura ha annunciato a tutti i giornali europei, l'ho ripreso, un piano di investimenti strategici, quello che si chiede da tempo, pari a 300 miliardi di euro, e uno dice però 315 per la precisione. Perché si chiede da tempo? Perché da tempo si dice all'Europa, attenzione, la Commissione Europea, non puoi trattare un costo, una spesa corrente come un investimento. Qualunque imprenditore sa benissimo che un investimento in un macchinario è una cosa, aumenta la produttività nel futuro. Una spesa corrente per abbellire l'ufficio della segretaria non è un investimento, è solo un costo. Poi per alcuni può essere anche un investimento. Però detto questo, l'Europa non distingue quando calcola il deficit. Sembrava che Juncker si fosse mosso nella linea di dire no, distingueremo tra progetti di investimento strategici per l'Europa e il deficit che uno Stato acquisisce, accumula perché non riesce a gestire bene le sue spese correnti. Nulla di tutto questo, l'elefante ha partorito un topolino da 21, in realtà 15 miliardi. Today Europe is turning a page. Oggi l'Europa sta girando pagina. Dopo anni di sforzi per ristabilire la credibilità fiscale e promuovere le riforme, oggi stiamo aggiungendo un altro tassello al circolo virtuoso con questo ambizioso ma realistico piano di investimenti per l'Europa. Investire in Europa significa molto di più che dati, progetti, denaro, regole. Riguarda la gente, in particolare chi tra i cittadini europei è disoccupato. Dobbiamo lanciare un messaggio sia agli europei che al resto del mondo. L'Europa è tornata protagonista. Questo non è il momento di guardare indietro. Gli investimenti guardano al futuro. Certamente non dobbiamo dimenticare i sacrifici che tanti hanno fatto negli ultimi 6 anni per superare la crisi e per riformare ciò che non funziona nella nostra economia. Le riforme sono necessarie, ma non sufficienti per la crescita. Ora c'è bisogno di spingere sugli investimenti. Il piano sugli investimenti si può riassumere in un messaggio unico. L'Europa ora può offrire speranza sia alle sue generazioni future che al resto del mondo, diventando un polo attrattivo per lavoro, crescita e investimenti. Tarapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco. Allora, io non dico che Jean-Claude Juncker, che la prenderà a ridere, assomiglia a Conte Mascetti, però sentir dire che l'Europa sta voltando pagina, che è un nuovo capitolo, che al centro ci sono gli europei, quando poi uno legge i dettagli di questo piano, altro che 315 miliardi, i miliardi messi dall'Europa che poi non sono nuovi, sono soldi spostati da una parte all'altra, sono 16 dal bilancio europeo e 5 dalla Banca Europea di Investimenti. Come spiegava bene ieri Adriana Ceretelli, in realtà partiranno solo i primi 15. Questo è il capitale di base che, grazie a un effetto leva che a me ricorda più la Madonna Pellegrina, dovrebbe mobilitare la cifra totale di 315 miliardi. Gli altri li mettono i privati. Hai visto? È una garanzia di capitale che si assumerà i rischi che gli investitori attualmente non vogliono correre. E sostiene Juncker, ripeto, ma non capisco sulla base di quale atto di fede, che i nuovi capitali arriveranno almeno a 315 miliardi. I progetti che gli stati hanno presentato sono 1.800 e valgono 1.100 miliardi, quindi già, bene che vada, se ne becca uno su tre. Però l'Italia ha presentato progetti per 87 miliardi e stiamo parlando di 3 anni, quindi sono 20 miliardi per 3 anni. Comunque... l'Italia ha progetti per 87 miliardi, poi segue la Gran Bretagna con 60, la Spagna con 50 e la Francia con 48. La cosa interessante, e ringrazio per averci raggiunto il collegamento, Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera. Spero buonasera. Che non se ne abbia Juncker per il Conte Mascetti, però insomma la cosa è che c'è un comitato che dovrà selezionare questi progetti e poi dire quali passano, e fin qua vabbè. Poi però, dice Juncker, abbiamo cambiato atteggiamento perché gli investimenti, i soldi che gli stati metteranno per questo fondo non verranno calcolati nel deficit. Però io facevo l'esempio, ma correggimi se sbaglio, che l'Italia potrebbe mettere, non so, 3 miliardi in questo fondo che non vengono calcolati nel suo deficit, e questo va bene perché sono investimenti, però poi il comitato assegnare i progetti magari al Portogallo o alla Polonia, quindi l'Italia mette 3 miliardi e non vede nulla. O paradossalmente uno mette 1 miliardo e ne vede 3 di progetti, ho capito bene? Il problema è esattamente questo. Dai, una presa. Sì, appunto, ci sono delle formule un po' ambigue in questo costituendo fondo per gli investimenti cosiddetti strategici. Per questo aspetto fondamentale dello scorporo della spesa per investimenti al calcolo del deficit, in realtà il dispositivo che è stato annunciato ieri non è chiarissimo, la formula è un po' ambigua. Si dice che la commissione, aperte virgolette, avrà un giudizio favorevole su questi capitoli, chiuse virgolette. Quindi insomma, ci sarà o non ci sarà questo scorporo? Aspetto decisivo, perché noi non possiamo consentirci nulla se non... Sì, però anche se ci fosse uno scorporo, cioè poniamo che il governo dica va bene, ne mettiamo 3 miliardi nel fondo strategico europeo, poi però la commissione decide, il comitato, di dare i soldi ad altri progetti, giustamente magari, no? Per cui tu questi 3 miliardi non te li rivedi indietro e li hai comunque tirati fuori, ho capito che non calcoli, non vanno sul deficit, ma li hai tirati fuori. In un paese come l'Italia, che è già contribuente netto dell'Unione Europea, cioè diamo più soldi di quelli che riceviamo, non so, non mi sembra il massimo della vita, però. Infatti non a caso il ministro dell'economia questa mattina ha detto che il governo italiano non ha ancora esaminato l'ipotesi di conferire risorse al fondo, perché non sappiamo ancora come funziona il fondo, ha poi aggiunto. E quindi, cioè, appunto, secondo me siamo di fronte a un annuncio con una speranza, un moltiplicatore ipotetico, potremmo definirlo, che non ha al momento alcuna certezza di realizzarsi, perché quanto poi sarà il capitale che effettivamente gli stati decideranno di far confluire nel fondo, nessuno lo sa. E come si fa a dire che ci possa essere un effetto moltiplicatore da 21 a 315? Sì, questa poi, vabbè, qui siamo alla fantascienza. Posso dire una cosa, se non si offende Juncker? A me sembra un piano fatto seguendo le migliori finanziarie del nostro paese degli anni passati. Sì. Che, no, è tutto un dovrebbe, si sarà, ci vedrete che sì, tutti i privati pronti a mettere i restanti 300 miliardi che mettono su progetti a rischio, perché voglio dire, digitalizzare l'Estremadura o la Calabria o, cioè, è un progetto insomma, in cui non è che il ritorno tu ce l'abbia immediatamente, così come quando fai un'autostrada o l'alta velocità non hai un ritorno immediato. Io già vedo i privati avere difficoltà sul project financing anche in Italia, non capisco perché dovrebbero correre a mettere soldi in questo fondo. Poi c'è quel mito di Katainen, che non è inutile che non mi chiediate, non è un... non è un autista di rally, è il vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea che dice, rigorista, quello che ha portato la Finlandia, infatti non è stato rieletto, dice, attenzione, non è un processo bizantino, non è la bacchetta magica, ma aiuterà gli investitori, perché mancano i progetti, ma c'è la liquidità. Boh, vabbè, ho capito. Come se ne esce? Nel senso che il ministro Padoan, che adesso non riesco a far sentire, ha detto, attenzione, vedremo se parteciperemo, però è necessario che ci sia uno shock per la crescita, come dire, questa roba qua non è che possa bastare. Dino. Beh, in effetti non si vede un grande shock, sembra che effettivamente l'Europa stia voltando pagina, come ha detto Juncker. E probabilmente ancora una volta si tratta di una soluzione di compromesso, non a caso, come avrei visto, non c'è alcuna, anzi c'è una reazione molto positiva da parte dei paesi rigoristi, anche perché qui non si mette, non c'è alcuna certezza per fondi pubblici che vengano inseriti in automatico in questo fondo, e dunque la preoccupazione dei paesi rigoristi, ancora una volta, quella di blindare i conti, mi sembra che sia nuovamente emersa. Quindi vedo molti punti oscuri, qualche potenzialità, ma il meccanismo deve essere molto più trasparente. Qui siamo all'esegesi della ingegneria finanziaria, come dire. Ci mancava solo quella, altro che shock, qui siamo allo sciocchino, mettiamola così. Quanto a giudizio sul piano. Grazie a Dino Pesole, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.